Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. A city under siege. Syrian army tanks on the streets of Hama. Day two of attacks by government forces. This the result. Local residents and activists say dozens of protesters have reportedly been injured. The American and French consul, they came to Hama from last month. They gave them power. They gave them. C'è stata la visita del console americano e di quello francese. Sono venuti ad Hama lo scorso mese e hanno permesso loro di continuare a terrorizzare la gente. Loro stanno uccidendo chiunque nella città. Sono gang armate molto potenti. Non ci sono carri armati dell'esercito. In Hama. Forse sono nei dintorni della città, ma non dentro. Non hanno attaccato nessuno ad Hama. Io vivo qui e ho visto tutto. Non ci sono carri armati nella città. Abbiamo bisogno che l'esercito entri ad Hama e mandi via queste gang armate. L'esercito non è ancora entrato ad Hama, quindi non ha ucciso nessuno. Le gang stanno sparando a chiunque, ogni uomo del governo o chiunque vedano. Appartengono ad Al-Qaeda. Se il governo e l'esercito non li cacceranno, ci sarà una nuova Al-Qaeda qui in Siria. They are Al-Qaeda. Believe me, if the government or the Syrian army didn't remove them, it will be a new Al-Qaeda here in Syria. Buona giornata, gentili ascoltatori. Nessun luogo è lontano. Mai come ora la Siria è stata così lontana, così vicina e così presente sui media, ma allo stesso tempo così distante. I fatti verificati sono pochi, le suggestioni, i commenti, le analisi possono essere tantissime. Abbiamo aperto con il servizio della BBC che raccontava di come i carri armati fossero entrati a Hama e poi la testimonianza che abbiamo raggiunto proprio nelle ultime ore di questa studentessa di medicina che dalla sua abitazione non ha visto alcun carro armato e anzi dice: io vorrei carri armati governativi perché queste bande armate di islamisti stanno seminando il terrore nella città Siria. Quale rivolta, quanto è difficile raccontarla senza avere fonti che possiamo verificare. Questa città Hama, da sempre nel mirino degli al-Assad, fin da prima del massacro dell'82, è al centro delle vicende degli ultimi giorni. Una buona giornata da parte mia, ma anche da parte di Mauro De Angeli, che sta in regia, Riccardo Poli e Alessandro Valia in redazione. Oggi parliamo di Siria, ma non solo. 349-238-6666, gli sms se avete domande, suggerimenti o commenti, la mail nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano. Allora vi porto nuovamente a Hama con ancora la voce di questa giovane studentessa. They are from Hama on the countryside. Yeah, but the most of them from Hama. Loro provengono dalle campagne, ma la maggior parte di loro da Hama. Combinazioni terrificanti, sono di Al-Qaeda. Se l'esercito siriano non li allontanerà, se prendessero il potere nei luoghi della rivoluzione, ci sarebbe una nuova Al-Qaeda in Siria. Dall'Egitto, dalla Giordania, verrebbero in tutta la Siria. Credetemi, sarebbe davvero una cosa terribile. It will be a new Al-Qaeda here in Syria. E ancora un'altra voce che abbiamo raccolto pochi istanti fa di un religioso del vicariato siro ortodosso ad Hama. Sentite cosa dice. Hama è molto difficile cosa, perché ça a commencé de grandes quantités, puis il n'y avait pas de problème, voyez? Il n'y avait pas de problème armé, ni de mort, ma il sortait. Ad Hama le cose sono difficili. All'inizio non c'erano problemi, poi sono venuti fuori notizie di problemi, di morti. È un mese che la città è circondata. Poi i giovani contestatori hanno eretto delle barricate. Prima del Ramadan hanno cominciato a bruciare tutto e poi la risposta è stata atroce. Ma anche loro sono stati atroci, anche loro, perché hanno tutte le armi. Dalle due parti ci sono le armi. All'inizio forse era rivoluzione pacifica, ma ora tutti hanno grandi armi e distribuiscono armi, ce ne sono camion pieni, revolver, armi di tutti i tipi. Le notizie all'esterno, ci sono bugie da entrambe le parti, non si possono confermare le notizie, ma ci sono atrocità da entrambe le parti. Ah, Allora, cerchiamo di capire quale rivoluzione siriana si sta raccontando nei media, che si aggrappano disperatamente a quelle pochissime voci che escono dal paese. Non tutto il paese è coinvolto da questa violento scossone che ormai da 4 mesi dura. Ci sono delle città che strategicamente e storicamente, come dire, sono dei punti nodali, dei fulcri, e attorno a quelle si sta giocando il futuro di un paese cruciale, strategico per tutto il Medio Oriente. E di fronte a tutto questo, l'imbarazzo di tanti reporter, pochissimi sono entrati, c'è stata una giornalista di Foreign Policy, c'è stata l'inviata della BBC, ma pochissimi riescono a testimoniare quello che sta accadendo negli ultimi giorni. Do il mio benvenuto al professor John, docente di studi strategici alla LUIS e presidente del Centro Studi di Geopolitica ed Economica. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, professore, siamo di fronte a un imbarazzo in cui i fatti confermati sono pochi, li possiamo contare sulla punta delle dita, mentre le speculazioni e l'analisi su quelle, diciamo, possiamo giocarci ampiamente. A quali scampoli, brandelli di fatti confermati secondo lei ci possiamo aggrappare? Ma guardi, a mio avviso bisogna ricordare innanzitutto una frase di Churchill che dice: quando i fucili sparano, la verità fugge. E praticamente che cosa capita? E viene letto in maniera completamente differente a seconda delle preferenze, degli interessi di chi formula una determinata opinione. Sicuramente la ragazza che prima aveva parlato, quella studentessa di medicina, deve essere o una lauita oppure una cristiana che si sente minacciata dal fratelli musulmani sunniti che sono a capo della rivolta in Siria, e di conseguenza vede tutte le cose sotto una determinata angolazione, che è l'angolazione non della realtà ma dei suoi interessi. Io sono stato 5 anni in Bosnia e le posso proprio assicurare che quello che viene raccontato nel corso delle operazioni belliche, soprattutto delle guerre civili e così via, non sta né in cielo né in terra. Generalmente è tutto manipolato, perché sia il vittimismo sia le minacce e così via sono utilizzate come delle armi per ottenere dei vantaggi sui propri avversari. Certo che la comunicazione, la propaganda sia fondamentale e abbia giocato ruoli importantissimi anche nella crisi libica, dove insomma poi arriveremo perché parleremo anche di questo, mi sembra innegabile. Che idea si è fatto scorrendo tutti i siti che proponevano questi video girati, questi video amatoriali, molto, alcuni molto drammatici, altri assolutamente incomprensibili, nel senso che erano attribuibili francamente a qualsiasi luogo in tutto il Medio Oriente, credo, e anche senza connotazioni temporali. Che idea si è fatto di questo proliferare di informazioni poco verificabili, insomma? No, praticamente sono informazioni anche molto molto difficili da interpretare in un quadro globale, perché a differenza di una partita di calcio può essere una televisione che ha guarda le gambe del giocatore e poi guarda l'insieme del campo. In un campo di battaglia praticamente sfugge ogni controllo, forse anche da parte dei comandi che hanno i collegamenti con le varie unità sul terreno, per cui si presta anche da un punto di vista comunicativo a tutte le manipolazioni, perché basta giocare sulla serie, sul seguito degli effetti degli vari scoop che vengono proiettati per creare un'immagine o un'altra. L'abbiamo visto per esempio anche nel Kosovo, no? Quando c'era un genio della comunicazione che è James Shea, che era il capo della comunicazione della NATO, che voleva risolvere un problema molto difficile, anche perché gli aerei NATO ogni tanto ne combinavano qualcuno, gli scappava la bomba, andava a finire sul convoglio dei profughi, andava a finire sul treno che certo Stava entrando in un ponte, e allora si utilizzava in quel caso lì il francescano, subito dopo che distribuiva il viveri alle rifugiati kosovari, oppure quando le cose erano veramente grosse c'era sempre la donna kosovara che veniva fotografata impiccata dicendo così che si era suicidata per violenze subite dai serbi. Attraverso questa successione di immagini praticamente si creano degli effetti, delle percezioni nell'opinione pubblica coerenti con gli scopi che si vogliono raggiungere, ma lo scopo non è la verità, lo scopo è il sostegno di un proprio interesse o di proprie convinzioni. E allora, con un certo sforzo, cerchiamo di ricapitolare questi ultimi mesi di crisi siriana con i dovuti condizionali del caso. oltre 4 mesi la Siria è sconvolta dalle rivolte e dalle proteste antiregime. Gli attivisti parlano di un bilancio di circa 2.000 morti, 1.600 dei quali civili. Stando alle ONG, inoltre, più di 12.000 persone sono state arrestate e migliaia sono fuggite all'estero. Il 15 marzo a Damasco è stato lanciato il primo raduno di piazza attraverso Facebook per una Siria libera. 3 giorni dopo, il regime reprime manifestazioni nella capitale, a Daraa, nel sud del paese dove si contano 23 vittime, e a Banias, nel nord-ovest. Il 30, il presidente Assad denuncia una cospirazione contro il suo governo. Il 14 aprile viene annunciato un nuovo governo, il 21 viene revocato lo stato d'emergenza e abolita la Corte di Sicurezza dello Stato. Si contano oltre 80 morti nel corso di manifestazioni represse dalla polizia. Il 29 si ripete il copione, in tutto il paese oltre 66 vittime. L'Unione Europea impone un embargo sulle armi. Il 31 maggio il presidente Assad decreta un'amnistia generale, anche se il 1 giugno Human Rights Watch, organizzazione intesa alla protezione dei diritti umani in tutto il mondo, parla di crimini contro l'umanità e il 3 maggio 65 civili vengono uccisi in tutto il paese. 2 giorni dopo altri 35 morti si contano nel nord-ovest. La Turchia accusa Damasco di atrocità, Washington parla di massacri di vite innocenti. Nel luglio scatta la protesta di piazza, oltre 500.000 di persone si riversano a Damà il 1 luglio. Ne segue una forte repressione del regime con una 50 di vittime. Dal 20 al 30 luglio continuano le proteste, represse nuovamente nel sangue con altre vittime, fino al 31 quando, in un'offensiva dell'esercito Hama, 100 civili vengono uccisi. Assad si complimenta con l'esercito. Se da un lato le forze militari hanno represso le manifestazioni civili in modo molto violento, trovandosi del tutto impreparate ad affrontare in modo diverso una situazione del genere, dall'altro, secondo alcuni osservatori, alcuni gruppi hanno cercato di trarre vantaggio dai disordini. In particolar modo i movimenti islamici di matrice sunnita hanno colto l'occasione per recuperare una credibilità ormai confinata a poche zone della regione. Una componente armata serpeggerebbe così anche tra la popolazione. Professor John, chi è che armerebbe questi gruppi? Ma guardi, i gruppi sunniti possono essere armati soprattutto dagli stati sunniti, ma penso che nel Medio Oriente ci siano armi un pochettino dappertutto. Tenga conto che la Siria superarmata, depositi c'erano un po' da tutte le parti. La lettura sostanzialmente deve essere vista da un punto di vista di separazione etnica, religiosa, dei vari gruppi esistenti in Siria. In Siria che cosa c'è? C'è praticamente il governo alawita degli Assad, no? La principale tribù è quella degli Assad, che sta monopolizzando il potere pur avendo sul 9-10% della popolazione. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, stiamo parlando di Siria, lo stiamo facendo con il professor Carlo John, docente di studi strategici alla LUIS. Mi sembra di aver capito, prima di averla interrotta, professore, con informazioni finanziarie, che la parola chiave per analizzare la Siria sia minoranza. Prego. Penso, mi sembra di capire che per analizzare correttamente il caso siriano una delle parole chiave sia minoranza, perché in qualche modo la Siria ha un grosso... Gli alawiti sono il grosso modo 10%, 9-10%, e monopolizzano il potere. E i sunniti sono 2/3 almeno, se non il 70% della popolazione, e sono praticamente tenuti sotto dagli alawiti e si vogliono ribellare. E abbiamo cercato già di ribellare all'inizio degli anni 80 e proprio nella città di Hama c'era stata una strage che viene secondo le fonti, insomma, varia da 10.000 a 40.000 morti fatti ad Hama solo. E il problema fondamentale, per esempio, che è poco discusso in Italia, è la posizione dei cristiani. In Siria ci sono il 10% della popolazione che sono di varie confessioni cristiane e i cristiani generalmente sono allineati con il partito Baath, cioè con gli alawiti, e il fondatore del partito Baath è stato un cristiano insieme a un alawita. E sicuramente essi si vedono in pericolo, come si sono visti in pericolo, con questo processo di democratizzazione che di fatto dà il potere ai fondamentalisti, dà il potere agli elementi più radicali, agli elementi salafiti che esistono in tutti i movimenti sunniti, anche nella fratellanza musulmana che per adesso sembra che abbia il controllo della situazione dell'opposizione in Siria, sì. Però fino a che punto sia unita non si sa. Ecco, come possiamo fotografare la situazione? La costringerei a uno sforzo di sintesi. Quella siriana è una rivoluzione, è una rivolta, è una guerra civile? Che cos'è? Ma è una rivolta che verrà repressa perché nessuno aiuta i rivoltosi. Stranamente neppure l'Arabia Saudita, che pure avrebbe interesse a far cadere il regime alla ruita perché alleato dell'Iran, non si muove perché ha paura che un successo della rivolta in Siria provochi uno sconquasso in tutti gli altri stati arabi e di conseguenza minacci anche la stabilità dell'Arabia Saudita. Allora professore, stia con noi perché passiamo dalla rivolta siriana allo stallo egiziano. Egyptian troops have clashed with a small group of protesters camping out in Cairo's Tahrir Square. The protesters were rallying to demand justice for demonstrators who've been killed in the unrest that toppled former president Hosni Mubarak. The clashes broke out after troops dismantled some tents on the square. Allora, Piazza Tahrir è stata risgomberata, è stata ripulita perché i manifestanti erano tornati nuovamente in piazza, quella che doveva essere la grande rivoluzione che stava fiorendo in primavera, in qualche modo sfiorita. Giro la domanda a Federica Zoia, corrispondente per il Sole 24 Ore dal Cairo, che però in questo momento è in Italia. Federica. Sì, quella egiziana sembra una rivoluzione mancata ancora più che sfiorita, una rivoluzione iniziata con ottime premesse ed una partecipazione popolare in tutto il paese, non solo al Cairo, e negli ultimi mesi invece in stallo. Questo perché si intuisce un accordo sottobanco fra l'esercito, che è ancora al potere nel paese, e i movimenti più solidi come la Fratellanza Musulmana, che in realtà da movimento di opposizione è diventato poi un movimento presente nella regia del paese e probabilmente quello che rimane del regime di Hosni Mubarak, perché il presidente sarà a breve processato, ma in realtà i suoi luogotenenti sono ancora al potere. Ecco, quindi diciamo che l'elemento cruciale in questa rivoluzione è l'esercito, è l'armata. E abbiamo citato la Fratellanza Musulmana, che dal punto di vista politico sta in qualche modo emergendo, ma dal punto di vista sociale della vita quotidiana ha sempre avuto una grandissima importanza nella vita non solo del Cairo ma dell'intero paese, no? Certo, si tratta di una forza che è stata bandita ai tempi del presidente Nasser, quindi negli anni 50, ma che si è diffusa sul piano proprio politico, sociale, di gestione della vita dei cittadini in modo capillare in tutto l'Egitto e che controlla quindi sindacati, scuole, università, quindi non è soltanto un uscire dall'ombra in modo ufficiale ora, si tratta di essere diventati un partito con un nome, Giustizia e Libertà, ma di fatto la Fratellanza Musulmana già aveva un grande controllo sociale in Egitto. Sì, e anche un forte appeal che in qualche modo vorrà andare poi a riscuotere politicamente. Ti faccio afferrare la sfera di cristallo, Federica, che cosa dobbiamo aspettarci da questo mese di agosto in Egitto? È molto difficile perché bisognerebbe capire quanto già l'esercito si è accordato con la Fratellanza Musulmana. Mi permetto di dire che l'elemento nuovo e in qualche modo inquietante è il ruolo invece dei salafiti, che nessuno si aspettava così forte, cioè nelle ultime manifestazioni si sono visti personaggi che non appartengono alla Fratellanza Musulmana e sono egiziani che stanno rientrando dall'Arabia Saudita e che sono effettivamente loro degli integralisti, perché la Fratellanza Musulmana tutto sommato integrata nel tessuto sociale, fa anche affari con l'Occidente, non ha interesse a destabilizzare più di tanto l'Egitto, i salafiti sì. Grazie, allora Federica, una buona estate, un buon lavoro e a presto. Grazie. Allora stiamo tentando un viaggio tra quelle che sono le rivolte che sono nate, che non sono ancora concluse, queste rivoluzioni più o meno sfiorite, tra problemi di fonti, di verifica delle fonti, di comunicazione, insomma la primavera del mondo arabo, del Medio Oriente è veramente di difficile lettura e comprensione. Professor Jean, per ciò che riguarda l'Egitto, lei che idea si è fatto? Nel senso, era partita questa, come tutte le altre rivoluzioni anche nel Maghreb, con grandissime aspettative, si era detto si volta pagina, l'assetto geopolitico del Mediterraneo non sarà più lo stesso, ridisegniamo la geografia, è veramente così o alla fine tutto cambierà e niente cambierà, tutto sarà come prima? Ma a mio avviso cambiamento di regime estremamente difficile, soprattutto in Egitto, forse più possibile in Tunisia, dove la borghesia è abbastanza forte, ma in Egitto praticamente l'esercito, che controlla circa il 40% dell'economia, continuerà a controllarla e si accorderà anche con i gruppi più strani. Perché per esempio con i fratelli musulmani non sono omogenei, sono divisi in vari gruppi, e poi ci sono, come è stato ricordato, questi gruppi salafiti che stanno monopolizzando la protesta popolare. In particolare le ultime proteste del 29 in piazza Tahrir sono state condotte da loro, e loro hanno cacciato i giovani che erano stati all'origine della rivolta, in particolare il Movimento 6 Aprile e i circa 26 partiti che c'è abbastanza da ridere. No? 26 partiti liberali, laici e così via, che avevano occupato la piazza e inneggiavano alla libertà. Invece i salafiti andavano con grandi cartelli inneggiando allo Stato Islamico in Egitto. Ora questo, lo Stato Islamico in Egitto non verrà accettato dai militari, che reprimeranno una rivolta salafita. La Fratellanza Musulmana, che è fatta da persone che conoscono come funziona il potere e così via, sta cercando di mettere d'accordo con l'esercito. Ora bisogna vedere fino a che punto, come giustamente è stato detto, questo accordo potrà funzionare o no. E allora, da questo accordo possibile, che vedremo quanto andrà in porta, questa rivoluzione alla fine non conclusa, al pantano e alla guerra civile della Libia. Quante volte abbiamo sentito i cori di vittoria dei miliziani ribelli? Franco Pagetti, fotografo dell'agenzia Seven, buongiorno. Buongiorno. Sono bravissimi a festeggiare, sono anche, insomma, ci mettono il cuore, ci mettono l'anima, ci mettono il sangue, però queste scene di vittoria le abbiamo viste tante volte anche insieme, perché ci siamo ritrovati a Bengasi, in realtà prima al Cairo, abbiamo fatto un pezzo di deserto insieme a marzo-aprile, tu poi in Libia ci sei tornato parecchie volte. Una fotografia dalla Libia, quanto è cambiata questa rivoluzione, che io ho definito ormai pantano, dalla prima volta in cui ci sei stato all'ultima, che è di pochissimi giorni fa, poche settimane fa? Beh, la parola pantano esprime esattamente quello che è la rivoluzione libica, se si può chiamare rivoluzione in questo momento. È come passare da una strada sterrata secca ad una strada impantanata. Non ci sono più gli abbracci della popolazione agli stranieri, non ci sono più i benvenuti ai giornalisti, ai fotografi, sicuramente non è più libero l'accesso al fronte, è difficilissimo poter parlare con delle persone, si viene evitati, insomma non sanno neanche loro cosa fanno, non sanno dove andare, invocano l'intervento della NATO, ma nello stesso tempo, ed è la dimostrazione settimana scorsa quello che è successo, si ammazzano tra di loro. Tu, Franco, fai riferimento all'assassinio di Abdel Fattah Younis, che era un ex ministro del regime, poi era passato tra le file dei ribelli ed era un generale che fino a qualche settimana fa, insomma, noi ritenevamo tenuto in grande considerazione dalla macchina ribelle, e poi improvvisamente questa notizia shock, che in realtà, diciamo, molto verosimilmente è stato un regolamento di conti interni. I portavoce invece del Consiglio Nazionale Transitorio hanno detto che sono state delle spie di Gheddafi. Fra l'altro, due giorni fa, proprio a Bengasi, nella zona ovest, ci sono stati degli scontri, c'è uno sfilacciamento, forse la compagine ribelle non è più forte come si dimostrava, che è la faccia, come dire, sorridente, così gioiosa, questa macchina che era all'inizio, non dico perfetta, però funzionava, nonostante le sconfitte sul terreno si avanzava verso Tripoli, adesso inizia forse a mostrare le prime crepe, inizia forse a incrinarsi. Nessun luogo è lontano. Quante volte ci siamo sentiti litaniare, Franco, che Ashdabi era libera, poi andavamo lì e insomma il fronte era ancora ad alcuni chilometri dalla città, ma di questo ne riparliamo tra un minuto. Al professor John chiedo di nuovo di impugnare la sfera di cristallo e di predire dove andrà a finire questa rivoluzione libica, questo fronte ribelle che ripeto, comincia a mostrare delle crepe, forse le dinamiche tribali iniziano a farsi sentire? Ma guardi, le dinamiche tribali si sono fatte sentire sin dall'inizio. Come andrà a finire? A mio avviso andrà a finire una situazione di stallo in cui a un certo momento le proposte di Khadib, l'ex ministro giordano degli esteri, che è inviato speciale dell'ONU in Libia, che cioè quello di fare un accordo diretto tra i ribelli e il Gheddafi, e di costituire un consiglio, una presidenza provvisoria di 5 membri, 2 designati da Gheddafi, 2 dei ribelli, presieduta dal capo del Consiglio Nazionale Transitorio di Bengasi, può darsi che possa riuscire a qualcosa. Però c'è da tenere conto di un fatto, che incominciano le rappresaglie reciproche tra le tribù. Per esempio, viene denunciato il fatto che della tribù Farfalla, che è una delle principali sostenitrici di Gheddafi, sono state uccise 120 persone in zone occupate dagli insorti. Professor John, ascolti però con me quello che diceva poche settimane fa Mustafa Gheriani, che è uno dei portavoce del Consiglio Nazionale Transitorio, che minimizzava in questo modo il ruolo delle tribù. I think it's when a lot of people hear about tribes, they compare us to the rest of the world. Whether it's the Huron tribes in America, okay, or some other tribes in some other countries, where they have a chief. Credo che quando molta gente sente parlare di tribù, ci compara al resto del mondo, come le tribù indiane in America o altre tribù in diversi paesi dove c'è un capo. Le nostre tribù non sono strutturate in questo modo. Ci sono le persone più anziane che si occupano di affari sociali. Molte persone vivono nelle città e provengono dalle zone interne del paese. Loro appartengono ad ogni tipo di tribù. Se guardo alla storia centenaria della vita della mia famiglia, io provengo da 3 diverse tribù. Mio padre discende dai Gheriani, sua madre viene da Misurata, mia madre da Morfella. Quindi bisogna guardare la natura di queste città, sono molto integrate e le nostre tribù non sono per niente come Gheddafi vorrebbe presentarle al mondo, sempre pronte a causare guerre. Qualunque cosa tu possa sentire e in qualunque luogo tu possa andare, puoi vedere che siamo uniti e Tripoli è la nostra capitale. Questo non è cambiato in nessun luogo della Libia. Create a civil war and all that. In fact, everything you hear and everywhere you go, you'll see that we are united and Tripoli is our capital. Insomma, queste poi dichiarazioni, come dire, molto opportunistiche, poi smentite dalle ultime settimane di recente storia libica. Sinteticissimo, professor John, Gheddafi sta vincendo alla fine, perché resistendo così a oltranza, insomma, mi sembra che già all'interno della NATO si inizia a dire, vabbè, ma fino a quando bombardiamo? Cosa stiamo facendo? Sì, va bene, insomma, ieri la Norvegia si è ritirata. E può darsi che fra poco tutti quanti ci ripensino, sia francesi che inglesi hanno incominciato a dire che Gheddafi può rimanere in Libia. Fino a poco tempo fa dicevano che assolutamente doveva andare via dalla Libia. E quindi sta vincendo? Ma il tempo lavora a suo favore, più che resiste più vince. Le sue forze sono raggruppate intorno a Tripoli, che è una metropoli grosso modo di 1.600.000-1.700.000 abitanti, che non si vede come i ribelli possano conquistare. In quelle dichiarazioni che sono state fatte c'è del vero e c'è del falso. Sì. Il vero è il fatto che sicuramente le tribù perdono gran parte della loro coesione una volta che si urbanizzano. Certo. Quando le persone delle tribù vanno nelle città, le tribù sicuramente si perdono un pochettino di forza. E d'altra parte però abbiamo visto adesso nel funerali del generale Youssef come la tribù Obeidi, che è la tribù a cui apparteneva, si è fatta sentire, ha cominciato a sparacchiare in giro per Bengasi. Il portavoce delle tribù hanno dichiarato la fedeltà della tribù al governo provvisorio, il che vuol dire che la tribù vuol dire che conta. E d'altra parte la Libia non ha istituzioni, sono rimaste delle istituzioni tradizionali che sono le tribù. E quindi a quel punto potrebbero guadagnare, insomma, tutto il potere che hanno sempre avuto storicamente, tutto l'appeal anche sociale. A quel punto da molti osservatori è venuta, come dire, è scaturita la paura di una nuova Somalia, si è detto, paragonando la logica clanica a quella tribale, quindi poi altro che Pantano. Io ringrazio il professor John, docente se di... Se permette sì, una certo. cosa ancora, è un vantaggio per la Libia, il vantaggio del petrolio. Il petrolio può essere utilizzato in maniera centralizzata. In Somalia invece, oppure in Afghanistan, che è basato per esempio sulla coltivazione dell'oppio in Afghanistan, la ricchezza viene dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso, e di conseguenza in uno stato come la Libia il fatto che la ricchezza petrolifera venga dall'alto verso il basso è un fattore sicuramente di unione nazionale. E particolare non di poco conto. Grazie allora al professor John, docente di studi strategici alla LUIS, presidente del Centro Studi Geopolitica Economica. Grazie, buona giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Franco, torno a te perché poi tu sei tornato in Libia, perché a volte ci stavi raccontando di quanto è cambiata anche la percezione che si hanno degli stranieri, di quanto difficile sia raccontare, andare al fronte. Oltre a questo cambiamento, che altre sensazioni hai avuto? C'è stato secondo te un miglioramento delle capacità militari dei ribelli? Mi ricordo a marzo erano, insomma, come dire, li vedevi, no? Un uso troppo disinvolto delle armi, sparavano ovunque, poi al fronte erano assolutamente disorganizzati. Ma l'errore, cioè l'errore, la mancanza di comunicazioni tra di loro era la prima grossa pecca di questo esercito raffazzonato all'inizio di volontari. Mi ricordo che una foto che io feci all'inizio della guerra, della rivoluzione, e che venne pubblicata nel New York Times, ed era una foto che io avevo fatto così casualmente, ed era un parcheggio di macchine e subito dopo dei carri armati e della gente stesa per terra con Kalashnikov o armi un po' raffazzate. E questa foto colpì la foto editor del New York Times perché dice sembrava una guerra da weekend, che era un po' questo, gente che arrivava al fronte con il figlio o la moglie a fare un picnic, posteggiavano la macchina e si mettevano sdraiati per terra a giocare ai soldatini. Purtroppo abbiamo visto che a Ras Lanuf, abbiamo visto Misurata, abbiamo visto in altri posti, non è così. Non mi sembra che sia cambiato molto. Per Benghazi girano sempre questi personaggi, se possiamo dire anche un po' ambigui, vestiti di tute militari che spadroneggiano, fanno sì. un po' i bulli, ma li considererei più dei bulli da città se non fossero posti e contestualizzati in un paese in guerra. Non mi sembra che le condizioni militari siano cambiate. Sono cambiate quando la NATO picchia duro e, certo. e se sono cambiate non ce lo fanno vedere, perché, come ripeto, non c'è più la possibilità di andare al fronte come una volta. Le voci, non sono potuto andare, non ho visto, pare che ci siano degli istruttori, tra virgolette, stranieri, i quali oltre che istruire danno una mano non indifferente a cercare di ributtare Gheddafi, le truppe di Gheddafi indietro. Anche in perché tre mesi hanno preso solo Brega, non è che abbiano fatto dei passi da gigante. Fra l'altro il ping pong dei due fronti, Brega, Ras Lanuf, Asdabia, è durato veramente mesi con un sacco di vittime civili e ormai diventava quasi una tragica barzelletta, no? Abbiamo preso Brega, abbiamo preso Ras Lanuf, poi non era mai vero. No, ma poi raccontavano, a me personalmente è capitato durante l'assedio a Asdabia, Asdabia libera, andiamo ad Asdabia, la macchina davanti a noi, per fortuna quella davanti a noi, e purtroppo per gli occupanti di questa macchina è saltata per aria colpita da un colpo di RPG. E anche questo, quindi... anche questo fa parte del pantano libico che hai raccontato per i grandi giornali internazionali. Grazie Franco, a risentirci, a prestissimo, buona giornata, buon lavoro e buone foto. Grazie a voi, buona giornata. E allora adesso abbiamo tempo di far ruotare il mappamondo e vedere un po' che cosa capita. WhatsApp, notizie dall'altro lato del mondo. Allora, è vero che la crisi siriana tiene banco, ma è anche vero che sono filtrate indiscrezioni dall'autorità israeliana, secondo cui Israele sarebbe pronta a ridiscutere i confini del 67, di prima di quella guerra. Le reazioni da parte dell'autorità palestinese però sembrano piuttosto fredde. E poi andiamo in Iraq, a Kirkuk, dove è stato effettuato un attacco coordinato contro la comunità cristiana. Siamo nel nord dell'Iraq. Un'autobomba esplosa poche ore fa davanti alla chiesa siro-cattolica della Sacra Famiglia, ha causato almeno 20 feriti, tra cui 5 cristiani e 4 bambini. C'era anche una suora tra i feriti. Altre due autobombe, una piazzata vicino alla chiesa Margorgis e una davanti alla scuola siro-cristiana, sono state poi disinnescate dalla polizia di Kirkuk. Abbiamo parlato in questa puntata di Pantano, insomma, quello iracheno è rimasta davvero una guerra, una crisi, da questo punto di vista assolutamente irrisolta. E poi a Gaza, dove l'aviazione israeliana ha attaccato la scorsa notte un tunnel usato dai contrabbandieri vicino a Rafah, sul confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza. Fonti palestinesi a Gaza hanno detto che non ci sono state però vittime. Un portavoce militare ha detto che il raid è stato attuato in risposta al tiro di un razzo da Gaza sul sud di Israele, che ha causato il ferimento di una donna. Da qui la reazione, come spesso avviene, immediata, subitanea da parte delle forze israeliane. Altre fonti a Gaza hanno riferito che si sono udite nella striscia due esplosioni, le cui cause non sono state ancora accertate. E poi andiamo in India, in chiusura di questo WhatsApp, dove è uscita la notizia di una fuga radioattiva in una centrale atomica nella regione di Gujarat. 4 operai sono stati esposti a una fuga radioattiva. Il fatto in realtà è riferito a fine maggio, ma solo recentemente le autorità ne hanno dovuto dar notizia. Perché? Perché 4 operai contaminati hanno poi fatto causa all'azienda e hanno chiesto appunto un risarcimento. Gli operai, secondo quanto hanno riferito le agenzie, stavano imbiancando la sala di controllo della centrale e sono venuti a contatto con del materiale radioattivo. Da lì i controlli medici e poi, insomma, la denuncia alle autorità indiane. Allora, Nessun Luogo finisce qui. I saluti doverosi a Riccardo Poli, Alessandro Balia in redazione con me, senza i quali questo programma non potrebbe andare in onda. Mauro De Angeli, che ha messo un pizzico di musica e di ritmo in più. Io vi ricordo che potete scriverci non solo gli sms al 349-238-6666, ma commenti, suggestioni anche per le prossime puntate alla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci, noi ci risentiamo domani alle 13:15, ma non prima di avervi ricordato che Nessun Luogo è Lontano.